Leggo a pagina 74, per i tantrici il desiderio è il movimento stesso dell'universo. Per non doverlo eliminare, l'hanno considerato una sua forma assoluta e si sono chiesti: ma che cos'è che desideriamo veramente? Bene, di solito crediamo che noi desideriamo un oggetto o un altro oggetto, perché noi abbiamo una visione frammentata della realtà. Dunque, dice Odier, attraversiamo il mondo come predatori, cercando di appropriarci di tutto ciò che il desiderio può toccare. Dove breve tempo realizziamo di essere insoddisfatti. E questo meccanismo del desiderio troncato ci spinge continuamente a desiderare sempre più oggetti, in una ricerca senza fine che sfocia nella frustrazione. Allora si chiedono i tantrici, ma se il desiderio desidera altro che non gli oggetti? Che non fossero gli oggetti il luogo dove il desiderio va? Se il desiderio fosse soltanto quella incandescenza che dà la sensazione di essere vivi, l'intensità, il fremito che ci conduce, bene, se fosse così, allora sarebbe assurdo lasciarlo consumare dagli oggetti e perderlo quando li possediamo. Questo movimento profondo è la stessa vita. E questo fremito, questa incandescenza, è quello che conoscono gli yogini e gli yogin, proprio mentre restano nell'incandescenza del desiderio senza renderlo dipendente dall'oggetto. Allora, gli oggetti sono visti solo ciò come che mantiene l'incandescenza, una sorta di trigger, diremmo noi, senza ridurla. Poco più oltre dice, l'ostacolo alla nostra continua soddisfazione, essere in stato di estasi, è il nostro ridurre il desiderio, cercare di controllarlo, anziché lasciarlo espandere sulla totalità degli oggetti. Un desiderio ridotto blocca la fluidità della coscienza, delle sensazioni, dei pensieri e delle emozioni. E poi dice, quando un solo oggetto prende un posto unico nella nostra mente, cioè diventa monopolista, non c'è più movimento in noi e si installa la sofferenza. È questo che accade tra innamorati quando l'innamoramento è monopolio. E allora apro una parentesi. Ci sono due modi di innamorarsi. C'è un modo dell'anima e un modo dell'ego. Normalmente conosciamo il modo dell'ego. Il modo dell'ego fa sì che la coppia si isoli. Dopo un po' il partner diventa colui da cui dipende la nostra soddisfazione. Certo, vedo il partner e quando c'è lui o lei il mio mondo si colora, ma se il partner va un po' più in là o per un attimo si allontana, mi rifiuta, il mondo diventa buio. Quindi io si crea una vera e propria dipendenza. Questo è il modo dell'ego. Il modo dell'anima è che il partner diventa una finestra sull'universo. O meglio, una finestra che mi risveglia sulla realtà vera. E qui quindi occorre aprire una parentesi filosofica. Ma noi, quando viviamo, siamo nella realtà? La domanda è questa, eh? Bene, la risposta che ci viene dalle filosofie orientali e da tantrici in particolare è che no, non siamo nella realtà. Noi viviamo continuamente in ipnosi. Nel senso che tra noi e la realtà mettiamo un filtro costituito da aspettative, desideri, paure, ogni forte emozioni che fa sì che noi la realtà non la contattiamo per quello che è, ma la mettiamo sempre al servizio delle nostre aspettative, proiezioni, bisogni, paure e così via. Quel tipo di realtà visto così non è molto piacevole. Ed ecco perché noi rifiutiamo la realtà. Proprio perché la rifiutiamo, cerchiamo di ricostruirla a modo nuovo, diversa da com'è. Legga pagina 118. La nostra difficoltà a essere presenti alla realtà deriva principalmente dal nostro non accettare la realtà così com'è, perché non ne vediamo né la bellezza né la profondità. Ci immaginiamo a torto che la vita, così come la riorchestriamo noi attraverso le nostre proiezioni, desideri, paure, sia più degna di essere vissuta. Quindi vogliamo trasformarla, cambiarla. In questo modo perdiamo una quantità considerevole di energia nel voler trasformare la realtà per farla obbedire ai nostri piani, al nostro ideale, alle nostre convinzioni. ma la realtà non è fatta per conformarsi ai nostri desideri. Così perdiamo tempo ed energia in questo lavoro assurdo. È la difficoltà principale al vivere una vita fluida, dove la realtà non sia più bloccata dal nostro stato mentale. Dice Odier, la nostra mente ha la capacità meravigliosa di muoversi rapidamente e di coincidere col flusso della vita, anch'essa estremamente mobile. Cioè, la nostra è uno strumento duttile che è in grado di convibrare con ciò che c'è. Ogni volta che interveniamo per far durare qualcosa che per natura è transitorio, blocchiamo il flusso naturale della vita. Ogni volta che interveniamo per cercare di interrompere una sensazione, un'emozione che non corrisponde ai nostri desideri, paralizziamo, blocchiamo il flusso naturale della vita. Allora, noi non siamo in contatto con la realtà, ma tra noi e la realtà c'è sempre un filtro costituito dai nostre aspettative, bisogni, paure, stati mentali, che fa sì che, anziché convibrare con ciò che c'è, trasformiamo ciò con ciò che c'è in un oggetto costruito da noi. Ecco perché gli orientali parlano di velo, di Maya, perché noi non siamo nella realtà, cioè siamo addormentati. L'ipnosi consiste nel non vedere più la realtà per quello che è, quindi non poterla accettare, perché la realtà vista attraverso i nostri filtri non è granché piacevole, e quindi a doverla continuamente trasformare. Questa è l'assurdità nella quale viviamo. I tantrici ci insegnano, lascia perdere le tue aspettative, i tuoi desideri, le tue paure, stai con ciò che c'è, compreso il fatto che c'hai una paura. Sentila, avvertila, entra in contatto con la paura. Se tu ti limiti a osservare la paura com'è, senza pretendere che cambi, senza pretendere che sia diversa, è un fatto reale. Ma questo fatto reale, se lo osservi così com'è, in atteggiamento contemplativo, ti accorgerai che come l'onda di un fiume dopo un po' non c'è più. Allora scopri che la sofferenza ha una durata, c'è un inizio e c'è una fine. Quando noi invece vogliamo bloccare la sofferenza, la vogliamo fermare, la vogliamo impedire, la sofferenza diventa sofferenza nevrotica. Usciamo dal fiume della vita e appunto, come diciamo sovente noi, entriamo nella pozza della nevrosi, dove non ci può essere gioia, ma solo sofferenza, una vita vissuta nell'indifferenza, o qualche momento di piacere e grandi momenti di dolore. Allora la via tantrica è questa, essere presenti alla realtà nuda. Questo fatto ci porta a essere innamorati dalla realtà, e questo è l'incandescenza che c'è dentro. Essere innamorati dalla realtà vuol dire che sono incandescente, brucio dentro dal desiderio di che cosa? Di contattare ciò che c'è. Perché? Perché è meraviglioso tutto. Una volta mi trovavo in Svizzera, vicino al ghiacciaio di Hesch, il ghiacciaio più lungo d'Europa, 25 km, viene giù dalla Jungfrau. C'era un osservatorio, un centro dove c'erano diversi apparecchi, tra cui un microscopio molto potente. E sotto questo microscopio potevano scorrere diversi oggetti, tra cui un pezzo di muschio, una foglia, pezzi di oggetti naturali. E cominciai a guardare dentro questo microscopio e mi accorsi che un frammento di un centimetro di muschio è come la foresta amazzonica, cioè ha la stessa complessità di una foresta pluviale. E certo, una foresta pluviale rimaniamo incantati quando ci entriamo, di solito di fronte al muschio no, ma non perché non abbiamo la vista attraverso un microscopio, ma non lo vediamo proprio. E se volete potete fare questa esperienza, andate in qualunque luogo, lungo un muro dove c'è del muschio, e non limitate a dire questo c'è il muschio e proseguire, ma fermatevi per 1 o 2 minuti, osservare soltanto il muschio, proprio un pezzettino, 4 centimetri, e notate cosa succede, in soli 2-3 minuti cambia la percezione. Si entra in uno stato che noi definiremo di trance, ma in realtà è uno stato di risveglio, perché io da quel muschio non pretendo niente, non ho nessuna aspettativa, non ho se obiettivo, non lo voglio classificare, non lo voglio mangiare, niente, il muschio è lì, io sono qui, e io sono insieme a questo muschio, divento questo muschio. E se faccio davvero questa operazione, in realtà io sto aprendo il cuore, e se apro il cuore entro nelle qualità dell'essere e provo gioia. Tutto lì. Magari ho dedicato 20 anni della mia vita per raggiungere qualche risultato nella carriera, qualche volta ero contento, molte volte ero frustrato. 4 centimetri di muschio su un muro mi possono dare quello che 20 anni di carriera non mi hanno dato. Forse questo come occidentale ci potrebbe fare riflettere.